Grazie a Renato anzitutto e alla sua capacità di tenerci inchiodati su ragionamenti spessi fino a quest'ora e non, assolutamente non banali ed anzi da rimuginare, da rielaborare, per cui confidiamo anche nella registrazione, se riusciamo anche a diffonderla può essere interessante. È stata una bella serata di grande spessore per i contenuti e per le modalità con cui questi contenuti sono stati dati e offerti in maniera anche molto, molto chiara, no? Con grande capacità di chiarezza. Anzitutto l'invito è a fermarsi a guardare i titoli e a comprare qualcosa che può essere interessante. Sotto, giù nella nostra sala da pranzo, offriamo qualcosa da consumare nella relazione o da relazionare nel consumo, cioè un po' di vino sincero da bere, un prodotto tipico locale che si chiama panettone o giubilì, che ormai verrà fatto in Indonesia probabilmente, però cioè, è di Milano, è lo stile milanese. Volevo concludere, qui c'è copia di questo intervento che da punti di vista differenti però dice cose anche molto interessanti secondo qualcuno di noi, che è l'intervento che ha fatto Nicky Vendola il 9 di dicembre a Roma alla costituente di non si sa che cosa. La cosa non si sa. E secondo, gli volevo leggere tre frasi che mi sembrano belle. C'è la frattura, parlava delle fratture in cui noi viviamo, c'è la frattura nella condizione del vivere urbano, in quella feroce distanza tra l'una parte del centro e l'inferno della periferia, in quella tracimazione del cemento che, alleando rendita fondiaria e speculazione edilizia, immaginò la crescita ipertrofica di città senza comunità, di luoghi senza qualità, di corpi edilizi incontinenti per corpi individuali spezzati e incomunicanti. E la periferia è diventata tutt'altro che un mondo residuale, ma la grammatica generale del vivere associato, anzi del vivere dissociato, il plastico urbano dell'ideologia totalitaria della precarietà. C'è la frattura nella condizione della famiglia disarticolata per fasce generazionali, con la fine della coabitazione delle tre generazioni che non mescolano più i loro saperi e le loro esperienze, con gli anziani esternalizzati in luoghi specializzati, gli adulti intenti sulle proprie carriere, l'infanzia affidata all'agenzia educativa del Grande Fratello o delle piccole chat. In questa geografia dei nostri territori polverizzati e caotici, in questa antropologia orfana di polis e quindi disperatamente estranea alla politica, c'è un bisogno vitale, direi viscerale, di tornare a porci le domande giuste, non le risposte giuste, quelle in cui ognuno diventa geloso della propria nostalgia e si presenta come il custode fallimentare della propria identità e della propria bandiera. Le domande giuste. Quelle sui poteri che ergono barriere architettoniche, sociali e culturali per dividere, per separare il genere umano, per dare nevrotiche appartenenze nei recinti angusti del proprio villaggio o della propria tribù o del proprio alfabeto. La precarietà, la nevrosi e la sicurezza sono gli ingredienti decisivi dell'egemonia culturale della destra, che trascende gli schieramenti politici e diviene lo spirito dei tempi, che celebra la religione della competitività e la liturgia della flessibilità, che è garantista con chi è garantito, giustizialista con chi è già stato giustiziato dal tribunale della globalizzazione, che mistifica le parole fino al punto di immaginare la pace economica in termini di guerra infinita, che vuole indurci nella tentazione della violenza affinché ogni idea di cambiamento possa smarrire e mistificare se stessa. È un altro punto di vista che dice cose simili, chi vuole ce ne sono una trentina di copie, i libri e si scende. Grazie. Auguri a tutti!